in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi i titoli sono abbastanza diversi, o comunque magari la stessa notizia viene guardata e quindi titolata in modo che quasi sembri una notizia per l'appunto diversa. Mi riferisco in particolare all'Ecofin, sul quale il Sole 24 Ore decide di aprire da un punto di vista molto economico, il vertice di Amsterdam dei ministri dell'economia, dove però si sono toccati moltissimi temi. Quello principale, secondo il Sole 24 Ore, è il cosiddetto patto di stabilità, quella regola che impone un certo rapporto tra deficit e PIL, che è stato molto criticato in passato, e la principale causa della cosiddetta austerity, perché a un certo punto, quando il PIL non cresce, ma il deficit quasi sempre continua a crescere, quel rapporto appunto cresce, perché cresce il denominatore, e quindi sono i problemi che ha avuto l'Italia, che ha avuto la Grecia, che ha avuto la Francia, che hanno avuto tantissimi paesi europei. E quindi il titolo: dall'Europa prime aperture alla semplificazione del patto, appunto il famoso, famigerato patto di stabilità. È il nostro ministro dell'economia Padoan, Piercarlo Padoan, che ha detto davanti a tutti, e il Sole 24 Ore lo riprende nel titolo: regole da rivedere, imboccata la strada giusta. Un articolo molto interessante che poi trovate a pagina 5, richiamato sulla prima pagina del Sole 24 Ore, è quello che chiamiamo un reality check basato sui numeri, cioè quel sistema che abbiamo adottato al Sole 24 Ore, chiamato Rating 24, per ciclicamente vedere se le riforme sono state attuate. Attuazione al 70%, decreti il bilancio dei grandi interventi dal 2011 a oggi, ancora da approvare, pensate, 341 provvedimenti. I decreti sono oltre 50% per le misure varate dal governo Renzi, ne mancano 216, perché sapete che ogni volta che viene varata una legge poi bisogna che ci siano i decreti attuativi, dove spesso poi si incaglia tutto, quindi la legge la riforma annunciata poi non parte perché mancano i decreti attuativi, che uno pensa sono una cosa automatica. No, in questo paese non lo sono mai stati, ed è già un grande successo che appunto siano al 50%. Il consueto intervento della domenica dell'arcivescovo di Chieti, Vasto, Bruno Forte, questa settimana si concentra in realtà, come spesso accade, sulla grande emergenza umanitaria, quella dei profughi, la doppia sfida per la terra e per i profughi, il dovere di agire in modo sostenibile e solidale. E sì, in realtà gli argomenti toccati sono due: quello della tutela dell'ambiente, quello della tutela appunto delle persone, della dignità delle persone, in particolare dei profughi. Il Corriere della Sera in un certo senso parte dall'Ecofin, però lega tutto quello che è stato detto all'Ecofin anche al viaggio di Angela Merkel in Turchia, e quindi il titolo: zone di sicurezza in Siria. Questo è infatti la proposta della Merkel dal confine turco, è che ci siano delle aree protette per chi fugge dalla guerra. Però siccome è tutto un tema europeo, in questo stesso titolo il Corriere della Sera scrive anche: migrazione e bilanci, dall'Ecofin segni di apertura sulla flessibilità. La fotonotizia è però dedicata a due volontarie che cercano di smacchiare un cormorano sporco di petrolio. Il titolo è il reportage di Elisabetta Rosaspina: il mare inquinato per chilometri. Il riferimento naturalmente è allo sversamento di petrolio che c'è stato a Genova. 50 tonnellate finora si calcola di petrolio in mare, ed è in realtà un vero e proprio stato di emergenza. E allora vediamo subito il Secolo XIX, che è il giornale di Genova, che titola infatti: onda nera, Liguria in trincea. Si sono gli argini a causa delle piogge che hanno colpito Genova, tra l'altro largamente previste, quindi ci si chiede, naturalmente a posteriori è sempre tutto facile, però ci si chiede come quell'argine improvvisato pochi giorni prima non sia stato rafforzato in vista delle piogge che erano state appunto ampiamente previste. Rotti gli argini sul Polcevera, la mobilitazione blocca il petrolio diretto al mare. A pagina 2 e 3 del Secolo trovate gli approfondimenti, la cronaca, ma anche uno schema che fa capire come, abbiamo detto del cormorano, con tutti i volontari dell'EMPA che stanno cercando di aiutare la fauna e i pesci della zona, ma come appunto quali siano gli effetti di sversamenti di questo tipo sulla vita marina. Il Messaggero titola, sceglie di titolare su una intervista ennesima, devo dire, di Angelino Alfano, che reagisce un po' al tema principale, quello scatenato dalla intervista di data a 3 giorni fa al Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo da parte di Piercamillo Davigo, nuovo presidente della ANM, con quella famosa frase: non è che non ci sia più la corruzione, semplicemente i politici non se ne vergognano più. E qui allora in questa intervista Alfano risponde a tanti di quei temi. Il titolo scelto dal Messaggero: i PM non contrastino i governi, i giustizialisti alla ricerca di un nuovo leader, spero che Davigo non si presti, non è uno scontro, solo attacchi unilaterali, sia alle intercettazioni ma tutela della privacy. Io in realtà mi sarei aspettata che il Messaggero aprisse sulla corsa al Campidoglio, che in realtà ha spazio in prima pagina, perché sapete che ieri Berlusconi, come scrive il Messaggero, ha blindato Bertolaso. Bertolaso resta il candidato a sindaco di Roma di Forza Italia, benché nei sondaggi sia molto indietro rispetto agli altri candidati del centrodestra, cioè Giorgia Meloni e Alfio Marchini. Poi ci sarebbe anche Francesco Storace, ma non arriverà comunque al ballottaggio. Gli altri due invece potrebbero. Anche in questo caso la foto di un cormorano con le ali aperte, tutto nero, perché appunto già completamente sporco di petrolio. Petrolio a Genova, finita l'emergenza, così stanno cercando di spiegarci. Poi però si vedono alcune foto o anche alcune foto dall'alto e sembra che insomma l'emergenza, soprattutto perché non è facile controllare le correnti del mare, quindi questa marea nera si sta spostando, l'emergenza in realtà è difficile da considerare finita. Veniamo alla prima pagina dell'Avvenire, perché come avete sentito nei GR c'è stato ieri questo giubileo dei giovani a Genova, con il Papa che durante la giornata si è mescolato ai ragazzi e li ha anche confessati insieme ad altri sacerdoti in piazza, e poi alla sera è intervenuto ma con un videomessaggio al meeting che c'era. Quindi il titolo del reportage, poi trovate tutto a un commento a pagina 3, poi reportage completi a pagina 6 e 7, il Papa si mescola con i ragazzi. Ma il titolo principale dell'Avvenire in realtà è dedicata a un'altra iniziativa di Papa Francesco per chi è colpito dai conflitti, cioè l'Ucraina e il Nepal in questo caso, quindi conflitti e tragedie. Ricorderete un anno fa il terremoto in Nepal, quindi la Caritas è riuscita a comunque ad aiutare il Nepal, anche se a distanza di un anno, spiega l'Avvenire, ci sono ancora 3 milioni di sfollati. E poi oggi nelle chiese di tutta Europa ci sarà invece una colletta per l'Ucraina, dove a distanza di oltre un anno comunque da questa guerra civile, che non si capisce bene se sia completamente finita o dove ancora esistono dei focolai di guerra, ma comunque persone in difficoltà ce ne sono tante, e da qui appunto la colletta per sostenere o chi ha perso la casa o comunque chi è in difficoltà in Ucraina, che è un paese tra l'altro economicamente allo stremo. La Repubblica titola sulla tragedia del petrolio di Genova: petrolio in mare, allarme in Liguria, spiagge a rischio. Ecco, quindi qui capire se l'emergenza è finita o no è molto difficile. Un intervento di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food: il destino fragile del Mediterraneo. La Stampa, un titolo ancora diverso, perché La Stampa, come ho detto come dico sempre in queste settimane, in particolare da quando alla direzione c'è Maurizio Molinari, che ha sostituito Mario Calabresi, che è andato a dirigere La Repubblica, si concentra molto su inchieste proprie che proprio si trovano solo sulla Stampa. L'inchiesta di questa settimana è dedicata alla giustizia. Il titolo: ogni anno 7.000 arrestati vengono giudicati innocenti e uno su quattro ottiene il risarcimento. Dal 1992 per questo sono stati spesi 630 milioni. E trovate questa inchiesta poi con tutti i dati a pagina 2 e 3 della Stampa. Il titolo di Libero: così Roma butta i miliardi che chiede agli italiani, un calcolo che ha fatto Libero sugli sprechi che ammonterebbero a oltre 1 miliardo l'anno, dai tributi non riscossi alle case regalate, dalle fontane d'oro alle auto blu. Voce per voce vi raccontiamo come si forma la voragine di bilancio. Sapete che il bilancio di Roma è una città tecnicamente fallita, abbiamo negli anni scorsi stanziato fondi di emergenza e quindi il Libero giustamente scrive: una voragine di bilancio che paghiamo noi tutti e di cui i candidati sindaci non parlano. L'unità ha una fotonotizia di Genova con uno dei un volontario di quelli che hanno cercato di ripristinare la diga. E però il titolo principale, il titolo di questa fotonotizia è Genova corsa contro il tempo, con un editoriale del direttore dell'unità Erasmo D'Angelis, se cede la diga, ma il titolo principale è dedicato alla corsa a sindaco di Roma, alla conquista di Roma, perché ieri tutti i candidati, anche quello del centro-sinistra Giachetti, erano, e anche quella del Movimento 5 Stelle Virginia Raggi, erano appunto a fare campagna elettorale in giro per la città, e quindi vengono riportate tutte le loro dichiarazioni. Ci fermiamo però un attimo anche per gli aggiornamenti sul meteo, che è un po' bizzarro in questi giorni. Ci ritroviamo subito dopo. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Una buona domenica da Alex Guarini e gli ascoltatori di Radio 24. Nel corso delle prossime ore qualche schiarita continuerà ad interessare le nostre regioni nord-occidentali e le isole maggiori. Cielo molto nuvoloso invece sul resto d'Italia, con piogge sparse anche a carattere temporalesco che a tratti nel corso di questa sera riusciranno a raggiungere anche Piemonte, Liguria e Lombardia. Buone notizie tuttavia per domani, con un graduale miglioramento del tempo a iniziare dal nord Italia, mentre il tempo risulterà ancora diffusamente instabile al centro-sud, con rovesci diffusi anche temporaleschi accompagnati da un brusco abbassamento delle temperature che produrrà anche il ritorno della neve sull'Appennino a partire dai 1200-1400 metri, localmente anche a quote più basse sui rilievi del centro. L'altra nota importante di domani saranno i venti forti su tutti i nostri mari centro-meridionali, con raffiche soprattutto sulla Sardegna, la Sicilia e il basso versante tirrenico, dove i mari tenderanno a divenire molto mossi o agitati. Con questo è tutto. Per aggiornamenti in tempo reale su questa ondata di maltempo, consultate il nostro sito trebimeteo.com. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e vi segnalo allora ancora quelle che ci mancavano, cioè Il Giornale, che titola Berlusconi balla da solo. Il riferimento è alla quella che viene chiamata la blindatura di Bertolaso come candidato di Forza Italia a sindaco di Roma. E poi ci sono molti commenti, un commento in particolare del direttore del giornale Alessandro Sallusti, dice: la scelta è apparentemente illogica, visto che tutti i sondaggi danno per possibile vincente o comunque molto competitiva la coalizione unita di centrodestra, sia in quasi tutte le città che vanno al voto, sia in eventuali elezioni politiche nazionali. Vale la pena di ricordare, giusto per la cronaca, che a rompere il patto non è stato Berlusconi, ma sono stati Salvini e Meloni, che dopo aver dato un convinto via libera a Bertolaso, hanno cambiato idea in modo repentino e assai ambiguo nelle spiegazioni. Quindi c'è un tentativo appunto di interpretare questa ostinazione di Berlusconi a sostenere un candidato che, come dicevamo, nei sondaggi risulta in questo momento perdente se corre da solo. Il Manifesto ha una fotonotizia dedicata a Genova, inquietante perché si vede chiaramente la macchia di petrolio, è il mare ma sembra in realtà un lago di petrolio, il titolo di mare in greggio. La pioggia spazza via la diga antipetrolio e il Polcevera, il torrente, riversa in mare un fiume di greggio misto a rifiuti oleosi. La Capitaneria di Porto dichiara lo stato di emergenza, il Ministro dell'Ambiente invia due navi di soccorso ma la Regione minimizza. E il Fatto Quotidiano invece ha, così come il Messaggero titolava sull'intervista al Ministro dell'Interno Angelino Alfano, il Fatto Quotidiano titola sull'intervista a Nicola Gratteri, che da pochi giorni è alla procura di procuratore capo di Catanzaro. Il titolo scelto è Renzi snobba la salva processi, troppi VIP finirebbero dentro. Ci ha chiesto una riforma ma poi si è arreso al partito della prescrizione. Sapete, Nicola Gratteri tra l'altro ha appena pubblicato un libro e da sempre un magistrato che cerca di spiegare come appunto la prescrizione sia una dei problemi più grandi in questo momento della giustizia italiana. Altri pensano che ce ne siano altri, ma per lui appunto è questo. E da qui l'idea che andrebbe riformata, ma la riforma per ora, sapete che la riforma della giustizia in generale è ferma, diciamo, all'esame del Parlamento e del Consiglio dei Ministri e di tutti quelli che dovrebbero occuparsene. Secondo Gratteri, appunto, la priorità resta quella della riforma della prescrizione. Vi segnalo la Gazzetta dello Sport perché unisce due eventi. Sembra veramente che l'unico che riesce a scalfire il monopolio del calcio alla domenica sulla Gazzetta dello Sport è Valentino Rossi, che ha conquistato la pole position, e quindi il titolo diviso a metà tra la Juventus, che se stasera vince è praticamente campione, probabilmente campione d'Italia, e poi invece la pole position di Valentino Rossi. Ma molto interessante questa notizia, ha fatto un po' impressione. Io non sono un'esperta di calcio, non so se era già successo, ma ieri l'Inter, che ha giocato a San Siro, ha battuto l'Udinese 3-1. Era un Inter tutta di stranieri, non c'era neanche un italiano, e ci sono questi 22 e le 14 nazioni dei 22 giocatori in campo a San Siro, tutti stranieri. Decide Jojo, cioè Jovetic, il giocatore montenegrino. Ma veniamo alle pagine interne. Come vi dicevo, a pagina 5 del Sole 24 Ore trovate l'approfondimento Rating 24, dove si capisce veramente quali riforme sono state attuate e quali no. Supera il 50% l'attuazione delle riforme targate Renzi. Poi, come dicevamo, appunto, ci sono però ancora 216 provvedimenti in corso. E poi, visto che ne sento parlare tanto, ma anch'io ho cercato di capire, leggendo questo pezzo, di che cosa si tratta, questi bot, che non sono i buoni ordinari del tesoro, ma queste nuove app, i brand entrano nelle chat. Trovate la spiegazione a pagina 14 in un articolo di Alessio Lana. Facebook insegue WeChat, Microsoft si affida agli assistenti virtuali, ma siamo sicuri che le chatbot ci aiuteranno davvero? E vi leggo appunto le prime righe che aiutano a capire che cosa sono. Il governo non c'entra nulla, i bot di oggi non sono buoni del tesoro, ma robottini che stanno conquistando silenziosamente i nostri dispositivi. Forma abbreviata di chatbot, sono dei software in grado di riconoscere ciò che gli stiamo chiedendo e rispondere in modo sensato. E segnalo questo articolo perché appunto è una di quelle parole che entra un po' così in sordina nel linguaggio comune, poi molti ne daranno il significato per scontato. Ecco, chi lo volesse capire in anteprima, diciamo, oggi su Nova 24, pagina 14, all'interno del Sole 24 Ore c'è tutta la spiegazione. Passiamo alla pagina del Corriere della Sera. Ci sono interviste, tantissimi magistrati danno interviste oggi, insomma Davigo ha iniziato e adesso tutti a seguire. Notarsi che una delle cose che Davigo diceva, soprattutto prima di diventare capo dell'ANM, che i magistrati devono stare zitti e parlare solo con le sentenze, in questi giorni non lo stanno facendo affatto, stanno appunto dando interviste a tutti i giornali. Per esempio sul Corriere della Sera l'intervista di Monica Guerzoni è a Pier Giorgio Morosini, componente del CSM, già GIP a Palermo, nell'inchiesta sulla presunta trattativa fra lo Stato e la mafia. Il titolo scelto per questa intervista: Davigo critica il malaffare, il governo migliori le leggi. Parlare di barbarie giustizialista, cosa che ha fatto Renzi tre giorni fa, prima appunto dell'intervista di Pier Camillo Davigo al Corriere della Sera, alimenta le tensioni. Sul Corriere della Sera poi vedremo anche che su Repubblica c'è un altro approfondimento, un viaggio a Minneapolis fatto da Massimo Gaggi, che è inviato negli Stati Uniti del Corriere della Sera, in Minneapolis dove c'era la grande casa di Prince, dove Prince è morto. I tesori nascosti di Prince, patrimonio da 300 milioni di dollari, una sorella possibile erede, ma c'è un giallo sul testamento. E poi c'è un caveau, pensate, con 2000 brani inediti di Prince. Il Messaggero ha un approfondimento su una delle elezioni che si tiene in questi giorni, l'altra lo vedremo in Serbia. Austria al voto, ultradestra favorita. Oggi ci sono le presidenziali in uno scenario inedito. I sondaggi danno favorito al ballottaggio Hofer, l'erede di Haider, Jorge Haider, lo ricorderete, il leader di questo partito di estrema destra che poi è morto in un incidente d'auto qualche anno fa. Contro di lui potrebbe esserci un indipendente. Sarebbe il tracollo dei partiti che da decenni dominano le elezioni. E poi una notizia che ho trovato solo sul Messaggero è davvero inquietante, specie per chi possiede, ama cani e gatti. Cani di casa nel mirino e boom di rapimenti. Nel 2015 sono triplicati i casi rispetto all'anno precedente. Spesso viene chiesto anche un ricatto. I malviventi preferiscono le piccole taglie come Chihuahua e Yorkshire, che, come sanno tutti i proprietari di cani o chi osserva i cani, sono molto petulanti, però ovviamente sono, magari abbaiano più dei cani grandi, però anche abbaiano, davvero non morde spesso nel loro caso, e quindi ovviamente sono più facili da rapire. Nel 75% degli episodi vengono sottratte femmine piccole utilizzate anche per la riproduzione. Pensate, nel 2015 sono stati rubati 3.350 chihuahua, e l'anno precedente erano stati solo, tra virgolette, 1.400, quindi più del doppio. Questa notizia raccontata da Valeria Arnaldi lo trovate a pagina 16 del Messaggero. Altra intervista a un magistrato, in questo caso Nino Di Matteo, PM a Palermo: la politica è incapace di colpire i corrotti, troppi attacchi ai PM. Questa la trovate a pagina 7 della Repubblica. La grande maggioranza delle toghe, dice Di Matteo, è d'accordo, la pensa come il capo dell'Associazione Magistrati Nazionale Magistrati Pier Camillo Davigo, che appunto sappiamo ha dato questa intervista a Cazzullo, che ha un po' poi avuto tutti questi strascichi. Vi dicevo, elezioni anche in Serbia. Tra i serbi al voto che sognano Putin, solo la Russia può darci un futuro. Reportage di Andrea Tarquini a pagina 13 della Repubblica. Verso una riconferma al premier Vucic, appunto di destra, secondo alcuni di estrema destra, che però vorrebbe l'adesione all'Unione Europea. Poi un bellissimo approfondimento sulla Stampa. È passato quasi un anno dall'inizio di Expo, ecco, allora e 6 mesi da quando è finito, e la Stampa è andata a vedere cosa fanno a distanza appunto di un anno dall'inizio e di 6 mesi dalla fine alcuni dei volontari di Expo: il cuoco, la prof di lingua, la disoccupata, noi, i ragazzi di Expo 6 mesi dopo. Ci sono quattro storie di successo di persone che comunque hanno avuto, grazie a Expo, anche tanti contatti, e quindi e poi hanno trovato magari un lavoro. Invece sono tutti ragazzi tra i 20 e i 30 anni, 3 storie di ragazzi che non hanno ancora trovato un lavoro. La Stampa è l'unico giornale che cerca di tenere alta il caso Regeni. Francesca Paci racconta: ripresi i contatti fra le procure di Roma e il Cairo. È la risposta egiziana alla seconda rogatoria avanzata dall'Italia. Un'intervista a Fabio Fazio sulla Stampa, perché quello che è successo è che le 2 puntate del Rischiatutto, fatte con i VIP, poi vedremo in settembre, quando ci dovrebbe essere poi la vera nuova versione con concorrenti, persone normali e non VIP, è stata molto, quasi unanimemente criticata, ma poi in realtà ha avuto record di ascolti. Quindi forse ancora una volta ha ragione Fabio Fazio, che infatti è entusiasta degli ascolti, si gode gli ottimi ascolti, racconta Egle Santolini. Il successo di Rischiatutto, merito di Mike, il suo quiz è un meccanismo perfetto, però sulla ripresa appunto in autunno, che dovrebbe seguire a queste 2 puntate che avrebbero dovuto ingolosire gli spettatori di amanti di quiz, la ripresa in autunno non è sicura, attendo una risposta della RAI. Vi dicevo le 2 pagine sull'Avvenire, reportage del Giubileo dei Giovani da Roma di ieri, un'intervista a Don Michele Falabretti: gli adolescenti troppo soli, gli hanno toccato il perdono. Un'altra intervista a un altro magistrato, qui un membro togato del CSM, Pier Giorgio Morosini, la trovate sull'Unità. Sulla giustizia serve il confronto, e poi sulla intervista di Camillo Davigo dice: Davigo comunque ha voluto fotografare l'estendersi del malaffare nel nostro paese. Sull'Unità anche uno speciale sul 25 aprile. Da Libero invece vi segnalo un articolo sulle nuove professioni, in questo caso sull'agricoltura. Se ne è parlato spesso nei mesi scorsi, su come anche i giovani stiano tornando a considerare appunto l'agricoltura come un'opportunità di lavoro. Nei prossimi 10 anni ci saranno, secondo Libero, 200.000 posti di lavoro. Un'altra intervista, un altro magistrato, questa è un ex, è un membro anche lei della Anna Canepa, anche lei della ANM. Davigo dice, è la segretaria, scusatemi, non della ANM ma di Magistratura Democratica, una delle correnti della ANM, dice: Davigo ha parlato per sé. La famosa intervista a Gratteri sul Fatto l'ha trovata a pagina 5 del Fatto. Però ora ci dobbiamo lasciare un attimo per altri fatti, quelli sul traffico. In primo piano, Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei giornali, poi passiamo ai supplementi culturali della domenica. C'è un ultimo articolo che voglio segnalarvi dal Fatto Quotidiano su una serie di eventi che si stanno svolgendo a Parigi, di cui io non avevo sentito niente ma che mi sembrano molto interessanti. Sono stati creati da un giovane, si chiamano Nuit Debut, e sono degli incontri in Place de la République a cui partecipano appunto soprattutto i giovani. Vengono definite le notti della nuova comune di Parigi tra dibattiti e chat. Si parla soprattutto di temi economici, con regole in cui, perché devono essere dibattiti assolutamente civili, li ha creati questo Rémy Buzyn, e ogni notte il tema cambia e il fondatore dice: siamo anticapitalisti e antirazzisti. La promozione, come è facile immaginare, avviene soprattutto tramite internet e i social network, però appunto questi dibattiti stanno iniziati probabilmente quasi un po' così per gioco, o come a volte accadono queste cose, adesso stanno diventando sempre più popolari tra i giovani di Parigi. Passiamo ai supplementi culturali, cominciamo dalla domenica del Sole 24 Ore, come sempre, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Pericolosi e parte con una citazione di Stefano Rodotà. La paura è comprensibile, gli imprenditori della paura sono invece pericolosi. Tempo fa, assistendo stancamente a uno dei soliti dibattiti sull'incubo degli attentati, ove la volontà ansiogena del conduttore si intrecciava agli stereotipi dei vari esperti convocati, sono stato risvegliato da questo assioma che il professor Stefano Rodotà poneva a sintesi di un suo intervento pacatamente argomentato, a differenza degli eccitati interlocutori. La paura è umana, anzi Montaigne non esitava a confessare che essa è la cosa di cui ha più paura. Ho più paura, diceva Montaigne, ma di fronte a certi politici che con la bava alla bocca costruiscono le loro fortune di sequela proprio sul seminare paura, il monito di Rodotà ha il sapore della saggezza. Una sapienza perduta da una società incendiata certamente dai bagliori degli attentati, ma anche squarciata dai bellicosi eccessi verbali e pratici di rigetto, di chiusura, di panico. Anche se detto da un importante statista, non sempre coerente, è lungimirante il motto di Napoleone III. In politica bisogna guarire i mali, non vendicarli. E a proposito dell'inadeguatezza della politica, il memorandum di Roberto Napoletano, il nostro direttore, il nostro di Radio 24 del Sole 24 Ore, dedicato a Draghi in particolare e al suo intervento questa settimana, dove ricorderete ha difeso l'autonomia della BCE e ha anche detto che non sta alla BCE sostituirsi alla politica. E il ricordo, tra l'altro, memorandum, Roberto Napoletano va indietro nel tempo e ricorda anche un intervento che gli ha mandato un lettore di Helmut Schmidt, che all'epoca era ex cancelliere, che scrisse al presidente della banca centrale tedesco dell'epoca, Hans Dietmeier, nel 96, il titolo era La Bundesbank non è uno Stato nello Stato. E appunto dovrebbero riconoscerlo sia i presidenti delle banche centrali, in particolare della Banca Centrale Europea, Draghi l'ha fatto, sia i politici, cioè ci devono essere due ruoli. Quindi, scrive Roberto Napoletano, questo è il merito politico più grande da statista che va riconosciuto a Mario Draghi, e colpisce che debba essere il banchiere centrale più innovativo che l'Europa ha mai avuto a chiedere alla politica di assumersi le sue responsabilità e a fare le scelte conseguenti. Un altro articolo interessante dalla Domenica del Sole 24 Ore di Domenico Scarpa, una recensione a una conversazione con Giovanni Tesio di Primo Levi, pubblicate dopo 30 anni le tre interviste registrate poco prima che l'autore di Se questo è un uomo si togliesse la vita e mai riviste. Nella loro grezza bellezza espressiva il senso di ciò che può e di ciò che non può essere detto. Un'altra recensione a un libro pubblicato dal Saggiatore, in questo caso Storia dei simboli matematici, il potere dei numeri da Babilonia a Leibniz, di Joseph Mazur, la recensione di Umberto Bottazzini. Joseph Mazur appunto ricostruisce l'alfabeto della matematica dall'antica Babilonia, le tappe fondamentali della storia dei segni, come il famoso pi quadro. E poi la lettura del Corriere della Sera, la copertina come ogni settimana affidata a un artista, questa settimana è Rashid Johnson. E poi vi segnalo le prime due pagine, Mauro Kovacic che racconta una giornata in cui si è imposto di non parlare. Oggi ho fatto scena muta. Bevo caffè alla macchinetta, prelevo al bancomat, pago alla cassa self-service, acquisto biglietti online, vedo gente, pratico sport, non parlo con nessuno. Ed è un punto divertente, poi è scritto da uno scrittore, quindi non è appunto, è proprio un vero e proprio racconto, non si sa neanche bene se veramente l'abbia fatta questa cosa, però l'idea è molto divertente. Poi è una storia bellissima, quella di un amanuense, viene definito l'amanuense della regina, Paul Antonio, che è di origine, in realtà viene da Trinidad. Il suo lavoro è quello di redigere la bella copia dei documenti poi firmati da Elisabetta. Il pensiero passa sulla carta attraverso di noi. È come la vita. Per non sbagliare occorre concentrarsi sulla lettera che stiamo realizzando, non su quella dopo, proprio la lettera, la singola lettera. E c'è anche una foto appunto di Paul Antonio, che è l'amanuense, lo scriba della regina, a 41 anni, e dice... La grafia ci rende eterni. Da quando ero bambino ho copiato milioni di geroglifici, ideogrammi, alfabeti, caratteri di ogni epoca. Poi molto interessante l'articolo di Antonio Polito sulle copertine del libro di Jonathan Franzen, Purity, che è uscito anche in Italia. Si spiega che l'autore Jonathan Franzen appunto ha dato nel romanzo, è molto parco nel descrivere l'aspetto fisico della protagonista del libro, che si chiama appunto Purity, e ha dato indicazioni perché si creassero, insomma, ogni editore facesse della copertina una sorta di idealizzazione di Purity. È molto interessante appunto anche per chi vuole cercare di capire come nasce la copertina di un libro. Su Repubblica un approfondimento bellissimo su Prince di Ernesto Assante, il tesoro di Prince, 10.000, 20.000, il Corriere diceva 2.000, potrebbero essere 10 volte tanto. Quanti sono gli inediti custoditi a Paisley Park, che è questa residenza a Minneapolis di Prince, e chi potrà ascoltarli? È forse l'ultimo scherzetto che il principe ha preparato per le major prima di andarsene. E poi per la serie Straparlando, le interviste di Antonio Gnoli, che vi segnalo sempre, illustrate da un disegno di Riccardo Mannelli. Questa settimana è un'intervista a Daniel Berger, che è stato dirigente del Metropolitan Museum of Art, ma anche amico di tanti galleristi come il famoso Leo Castelli. Quindi il titolo dell'intervista: ho vissuto l'arte senza imperativi, al posto giusto, nel momento giusto. Gli anni del Met, l'amicizia con Leo Castelli, l'amore per il patrimonio culturale italiano. Parla l'uomo che riportò in Italia i tesori rubati. Il macro del Messaggero è dedicato alla generazione millennials, il titolo: aiuto, mi si è ristretto il mito, questa generazione, quelli che hanno tra 18 e 30 anni, sembra aver perduto l'orizzonte comune e gli idoli che tenevano insieme i loro genitori e i loro nonni. Quindi un approfondimento su questa generazione per molti versi misteriosa, ma a cui tanti si rifanno, cercano di capire, anche perché sono, detto anche dal punto di vista del marketing, i consumatori già oggi, ma soprattutto i consumatori del futuro. Era l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, mi fa segno Carmelo Lauricella in regia, che ringrazio per avermi tenuta nei tempi. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli.